lugar, quando eu estou em dúvida, eu entrego nas mãos de Deus e peço ao Divino Espírito Santo que me mostre o caminho para que eu tenha certeza de que aquela decisão é a certa. Que queste non siano mai le tue catene, ma siano sempre la chiave della tua libertà. Io tenho certeza che vai ficar super lindo e che vou amar. Ciao. Cercare di fare qualcosa che ti faccia bene, che faccia bene a te stesso. Una volta che hai fatto bene a te stesso, agli altri si accorgeranno. La luce nei tuoi occhi, della tua serenità. Non fare niente per gli altri. Pensa principalmente a te stesso, alla tua serenità. Questo gioverà anche a chi ti sta intorno. Thank you.